I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America di Stefano Pistolini. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Please. Thank you. Thank you very much. Please. Be seated. Madam Speaker. Signora Speaker, Vicepresidente Biden, membri del Congresso, popolo americano, quando ho parlato qui l'ultima volta, questa nazione stava fronteggiando la peggiore crisi economica dalla Grande Depressione. Stavamo perdendo una media di 700.000 posti di lavoro ogni mese, il credito era congelato, il nostro sistema finanziario era sull'orlo del collasso. Credit was frozen and our financial system was on the verge of collapse. La sostanza è, poche ore dopo che si è tenuto, erano le 2 di notte ora italiana, quindi 11 ore e mezza fa, si è tenuto questo importante 47 minuti di discorso di Barack Obama alle Camere riunite. È stato definito il discorso più importante da quando Obama si è insediato alla Casa Bianca, interamente incentrato sulla epocale questione della riforma sanitaria americana. La domanda, l'interrogativo che dobbiamo porci è il seguente: può un discorso, un singolo discorso, per quanto virtuosisticamente pronunciato da un Obama tornato a tutti gli effetti ai fasti della campagna elettorale, ma può un discorso con tutti i suoi propositi, le sue promesse, le sue asserzioni cambiare il corso della politica nazionale americana? First president to take up this cause, but I am determined to be the last. Io non sono il primo presidente a occuparmi di questa questione, ma sono determinato, sono deciso a essere l'ultimo. È quasi un secolo da quando Theodore Roosevelt per primo ha chiamato in causa la questione della sanità nazionale. Da allora praticamente ogni presidente, ogni congresso, democratico o repubblicano, ha tentato di fronteggiare questa sfida. Un decreto onnicomprensivo sulla riforma sanitaria venne introdotto da John Dingell Sr. nel 1943, 65 anni più tardi. Suo figlio continua a introdurre lo stesso progetto di legge all'inizio di ogni sessione. 65 years later, his son continues to introduce that same bill at the beginning of each session. C'è stato tanto in questo discorso, c'è stato tanto che va commentato, capito, compreso, collocato al giusto posto nella comprensione delle dinamiche di settembre della politica americana, comprensione di dinamiche che sono profondamente diverse da quelle agostane, da quelle estive, che si può ben dire un periodo di grande scontento per Barack Obama e per la gestione della cosa nazionale da parte della Casa Bianca, laddove Obama ha deciso di demandare il compito, la questione dell'allestimento del progetto di legge necessario per la sanità, per il rinnovamento del problema della sanità nazionale al Congresso. Sono di fatto cominciati i guai. C'è una commissione che sta lavorando, c'è un Congresso che sta litigando, c'è una stampa che si sta schierando con cambiando atteggiamento con la velocità di una zanzara sul vetro, no? C'è una opinione pubblica assai confusa, assai perplessa, soprattutto assai bombardata da messaggi di ogni genere, e Barack Obama a questo punto, probabilmente consultandosi con i suoi più stretti collaboratori, ha fatto quello che ha sempre fatto in questi casi, nel tentativo di salvare la barca dall'affondamento naturalmente e del riprendere una sana navigazione della presidenza della Casa Bianca. Ha ripreso interamente la questione nelle proprie mani. We are the only democracy. The only advanced democracy on earth. Noi siamo la sola democrazia avanzata sulla Terra, l'unica nazione ricca che permette certi maltrattamenti nei confronti di milioni di persone. Ci sono circa 30 milioni di cittadini americani che non hanno copertura sanitaria. In 2 anni uno ogni tre americani va fuori dalla copertura sanitaria, perde la copertura sanitaria. Ogni giorno 14.000 americani perdono la loro copertura sanitaria. In altre parole, attenzione, può capitare a tutti. non ha badato a colpi di scherma troppo raffinati. Barack Obama in questo caso ha citato, ha raccontato storie di americani in profonda difficoltà, ha raccontato storie di cittadini abbandonati dalle compagnie assicurative private, che sono a tutti gli effetti il cattivo, il marrano rappresentato in questo discorso alle Camere Riunite di Barack Obama, a fronte di uno Stato che cerca di essere invece benigno, comprensivo, ma quanto comprensivo, quanto lo Stato americano vuole coprire il privato del cittadino americano. Questo è l'interrogativo attorno al quale tutta la questione ruota, ma soprattutto con un colpo a grande effetto, mentre la vedova di Ted Kennedy sedeva in galleria ad ascoltare il discorso vicino a Madame Michelle Obama. A un certo punto Barack Obama ha tirato fuori dal taschino il colpo veramente d'effetto, una lettera scritta da Ted Kennedy nel maggio scorso, quando ha saputo che la sua malattia ormai era arrivata alla dirittura finale, con l'incarico di consegnare questa lettera solo allorché fosse morto nelle mani del presidente. Ha detto Obama: ho ricevuto una lettera nei giorni scorsi, l'ha scritta a maggio, poco dopo aver appreso che la sua malattia era mortale. E in queste parole Kennedy chiede che Obama prosegua nella battaglia da lui tenuta in piedi per decenni, una battaglia che non è nata, ha scritto Kennedy, da una qualche rigida ideologia, ma dalla propria esperienza, l'esperienza di aver avuto dei figli colpiti dal cancro. Non ho mai dimenticato il terrore, il senso di abbandono che un genitore vive quando un figlio è gravemente ammalato, ed era in grado di immaginare Ted Kennedy che cosa potesse significare per chi non è assicurato, ha detto Barack Obama, portando alla commozione l'intera audience, non solo quella del Congresso, anche quella degli americani davanti a tutte le televisioni collegate in diretta. Well, the time for bickering is over. The time for games has passed. Il tempo delle baruffe è finito, il tempo dei giochini è finito, adesso è la stagione dell'azione, adesso è il momento in cui dobbiamo tirar fuori le migliori idee da parte di entrambi i partiti, mostrare che il popolo americano può ancora fare ciò che ci ha incaricato di fare, a noi che siamo qui al Congresso. È tempo di chiudere la questione della sanità, è tempo di chiudere la questione della sanità. Buongiorno America. Io credo ancora che noi possiamo agire in modo efficace quando il momento è difficile. Credo che possiamo rimpiazzare l'astio con la civiltà, la paralisi con il progresso. Credo che possiamo fare grandi cose e che qui e ora siamo davanti alla prova della storia, perché questo è quello che noi siamo, questo è il nostro compito, questo è il nostro carattere. Grazie, che Dio vi benedica e benedica gli Stati Uniti. un grande discorso, un discorso importante, un discorso che non può passare sotto silenzio, lo sanno gli americani, lo sanno i politici americani, lo sanno i media americani che stanno reagendo immediatamente con giudizi di vario indirizzo. Vi do qualche titolo. New York Times titola: il presidente Obama fa un passo in avanti, dice che è stato a lungo a guardare mentre la questione gli stava più a cuore, prendeva, andava alla deriva. Ora finalmente avrebbe trovato, secondo il quotidiano di New York, il presidente avrebbe trovato la sua voce migliore. New Republic titola: Obama torna a mettere in mostra la migliore forma, quella dei tempi della campagna. Invece molto critico il settimanale conservatore Weekly Standard, per il quale Fred Barnes scrive, accusa Barack Obama di aver sfruttato la morte di Ted Kennedy, di averlo usato come una figurina, un segnalino in favore delle proprie tesi, della propria teoria. Dion sul Washington Post scrive che il presidente deve trovare il modo di confrontarsi con questo autunno caldo, diciamo così, tornare a esprimere il meglio davanti alla prova centrale della sua presidenza. Infine Karl Rove, l'ex stratega della presidenza di George W. Bush, come al solito si dedica ai numeri, i numeri che gli piacciono tanto, e dice: attento Obama, con le cose che stai dicendo e le offerte che stai avanzando, stai mettendo fortemente a rischio i seggi di tanti tuoi compagni di partito democratici, che potrebbero avere il bacio della morte dal seguire le tue indicazioni. Ma noi abbiamo in diretta per la prima volta qui a Buongiorno America Mario Platero, il corrispondente dagli Stati Uniti del Sole 24 Ore, che salutiamo affettuosamente e al quale soprattutto chiediamo un parere sulla domanda che abbiamo posto all'inizio del programma: può un discorso cambiare l'indirizzo politico su una questione così importante di una nazione come l'America? Ciao Mario, a te. Buongiorno, sì, dunque, ma direi che un discorso come quello di ieri notte, che tu stesso hai definito un discorso straordinario, io aggiungerei un discorso storico, perché sicuramente è stato il più importante di Barack Obama da quando è alla presidenza, importante perché non solo affronta la questione della sanità e quindi di un nodo direi difficilissimo da risolvere. Ci hanno provato, come ha detto lo stesso Obama, molti altri presidenti, ma io, ha detto, sono determinato ad essere l'ultimo a provarci. Ma Obama direi ha affrontato questioni più ampie, le questioni della civiltà nel dibattito politico, e in questo devo dire è stato molto bravo nel non rispondere a coloro che lo stimolavano, lo punzecchiavano, gli chiedevano di reagire con rabbia e con aggressione alle aggressioni repubblicane. Bene, Obama non l'ha fatto, è stato fermo, ha usato sì un tono a volte aggressivo e un pochettino sopra le righe, ma non è mai uscito da quella civiltà di dibattito che lui stesso chiede e va predicando. Non sono sicuro che poi si riuscirà. Tu stesso citavi Barnes, citavi Karl Rove, sono le scary tactics, le tattiche della paura che continuano a venire fuori, ma devo dire che l'umore in congresso secondo me è cambiato. Ci sono molti repubblicani che si rendono conto che alcune delle pecche strutturali della sanità americana vanno riparate. La sanità costa il 16% del PIL, è la cifra più elevata di tutti i paesi industrializzati. Eppure ci sono 40 milioni di americani che non sono coperti, eppure ci sono cittadini della classe media che si vedono a un certo punto restituire le polizze, eppure ci sono cittadini che a un certo punto nel mezzo delle cure non possono più andare avanti perché si dice che avevano delle vecchie condizioni. Ebbene, Obama ha affrontato tutti questi punti dolenti che riguardano tutti gli americani, l'ha fatto direi con straordinaria abilità e dunque ha portato la palla in avanti. Secondo me, al di là delle tattiche della paura e dell'aggressione sicuramente sopra le righe dei repubblicani, perché quando si arriva a parlare di commissioni della morte, certo, o quando addirittura qualcuno attacca Barack Obama dicendo che vorrebbe vederlo morto, direi che superiamo appunto, certo, i limiti della civiltà. Ebbene, quello che voglio dire è che secondo me l'umore per il cambiamento c'era già anche prima del discorso. La mia impressione è che si arriverà a un compromesso, e che le radici di questo compromesso erano già evidenti alcune settimane fa, quando la Sibelius, e cioè il ministro per la sanità, fece un passo indietro e disse che forse il governo avrebbe potuto rinunciare a questa opzione pubblica e quindi alla creazione di un vero e proprio ente federale che avrebbe gestito un'assicurazione sanitaria. Ecco, io credo che si farà marcia indietro da quello e che forse si riuscirà a quel punto a recuperare quei 2 o 3 voti repubblicani che sono indispensabili per passare il progetto al Senato. Ecco Mario, ma non hai un po' la sensazione, insomma, anche a posteriori, in chiusura di questa estate così turbolenta per la Casa Bianca, per Obama in prima persona, che quello che sia andato un po' in crisi e che in un certo senso sia un po' lo sconfitto dopo il discorso di ieri sera del Presidente sia proprio il suo rapporto con il Congresso e anche la sua intenzione manifestata all'inizio dell'apertura ufficiale della pratica della riforma della sanità di delegare tutta una serie di decisioni, progettualità e anche di influenze, non solo in chiave bipartisan ma anche proprio come mandato esecutivo. Non può fare tutto il Presidente, fate anche voi la vostra parte. In realtà poi Obama ieri ha parlato anche di confusione, insomma, e in un certo senso ha riassunto la pratica nelle proprie mani. E questo rapporto non ha funzionato nel modo fluido che forse lui e forse anche gli americani si auguravano. Ma guarda, il rapporto difficile di Barack Obama in questa fase era soprattutto all'interno del suo partito, cioè all'interno del Partito Democratico, un Partito Democratico fatto di 2 anime, un'anima moderata che trova il suo specchio nei Blue Dogs, in questo gruppo di democratici del Sud che sono fiscalmente conservatori, e l'ala più di sinistra, la cosiddetta ala liberal del partito, che è in questo momento la più forte, quella che fa capo a Nancy Pelosi e a Harry Reid, rispettivamente Presidente della Camera e Presidente, capo della maggioranza al Senato. Ebbene, l'ala liberal, l'ala della sinistra è determinata, vuole, chiede che ci sia un piano pubblico, un piano a tutto campo in grado di competere con le assicurazioni private. L'ala conservatrice non lo vuole. Il vero problema di Obama è che da una parte ha una maggioranza abbastanza forte, sicuramente forte alla Camera e quasi in grado di superare il rischio del filibuster, dell'ostruzionismo al Senato, ma purtroppo si trovava con questo problema di avere un partito spaccato. È chiaro che i repubblicani politicamente li sarebbero stati contro, avrebbero sfruttato fino in fondo questa mozione per la sanità per attaccarlo, per cercare di metterlo sulla difensiva e in difficoltà, però il vero problema di Obama è stato quello di conciliare queste 2 anime del partito. Ha cercato di farlo ieri sera, ha parlato della public option, l'ha difesa strenuamente, ha espresso parole così di assoluta altezza morale nei confronti di un piano in cui il governo interviene, ma lo ha fatto per soddisfare quella base che quasi sicuramente, almeno questa è la mia opinione, sa che dovrà rinunciare a qualche cosa. La sua difficoltà è stata quella di dover riunire il partito, sapeva che avrebbe avuto questa difficoltà, ha preferito che il dibattito andasse avanti al Congresso ed effettivamente, come è successo in passato, delegare troppo può anche dare la percezione di una caduta di leadership da parte della Casa Bianca. Beh, ecco, ieri sera Obama l'ha recuperata nelle sue mani. Grazie a Mario Platero per questo punto su un discorso su cui tutti i media americani stanno dibattendo in questa primissima mattina, no? Il Buongiorno America, i programmi del mattino. Sentiamo Fox News. Look at Republicans and point the finger and go, well, you guys aren't playing fair or nice with us. Yeah. And that's just, we're not there anymore. We want to move forward like America does with a strategy that brings common sense approaches to solving the Medicare crisis. C'è una posizione piuttosto morbida, piuttosto conciliante da parte di Michael Steele, il capo del partito repubblicano, non un falco, un nero come Obama nei confronti della proposta del presidente, proprio da parte della rete televisiva, l'unica che ha deciso di non trasmettere in diretta un discorso che comunque resterà sul tavolo degli addetti ai lavori e anche degli americani per parecchie settimane a venire, perché questa, come vi dicevamo, è davvero la questione calda. Hey! naturalmente uno degli argomenti più interessanti cui ci occupiamo qui a Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in regia Alessandro Chiappini, in redazione Antonella Migliaccio. Appuntamento come sempre domani intorno alle 13.30 o poco più qui su Radio 24.